Unità d'Italia, in corso le celebrazioni, contestato il Premier, la Lega è incerta sulla presenza a Montecitorio. Nucleare, il ministro Romani, fermarsi un attimo e riflettere. Maltempo, situazione critica nel Lazio. A Copenaghen, i Radio Days Europe 2011, che ci raccontano la radio del futuro. Perché è giusto fare festa stasera? Perché è giusto, perché siamo italiani, è l'unità questa. Cosa vuol dire essere italiano? Vuol dire tutto. Perché sono i 150 anni dell'unità d'Italia. Sei contento di essere italiano e piemontese. Non credevo ci fosse tanta gente. Però manco una cosa. Le bandiere con lo scudo Savoia, che hanno fatto lì, sono quelle che hanno fatto l'Italia. E io la metto. Io non sono torinese, io sono nato a Roma, vivo in Piemonte a Ivrea, ho vissuto a Napoli, in Puglia, a Milano, per cui sono italiano. Quindi soddisfatta, contento, orgogliosa di essere italiana? Sì, certo, a volte. Stasera sì. Ludovico. Quanti anni hai? 14. Ma tu ti senti italiano? Sì, a tutti gli effetti. E di che città sei? Di Roma? Roma. Da dove vieni? Leno, Brescia. Ma tu quando senti l'inno di Mameli ti emozioni oppure ti sembra una cosa retorica? Mi emoziono, sì. Da Roma. Sono orgogliosissima di essere italiana. Quanti anni hai? Giro 7. Siamo 6 inviati dalla scuola, quindi... Ma ti senti italiana? Beh, sì, diciamo di sì. Si potrebbero migliorare un sacco di cose, però si spera che sia l'inizio questo. Le voci degli italiani dalla notte tricolore di Torino e Roma ad aprire questa edizione di GR24 nel giorno del compleanno dell'Italia che celebreremo oggi in vari programmi al termine di questo GR. Vi ricordo lo speciale La storia d'Italia in 24 minuti. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina e culmineranno alle 16 nel discorso del Capo dello Stato a Montecitorio dinanzi al Parlamento in seduta comune. Ci colleghiamo con Roma con Alessandra Scapisi che dalle 9 sta seguendo le celebrazioni romane. Sì, è così lunga giornata di celebrazioni qui a Roma dove si sta concludendo presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli la messa solenne alla quale hanno preso parte tutte le più alte cariche dello Stato, tra cui il Presidente della Repubblica Napolitano, lungamente applaudito al suo arrivo, fortemente contestato invece Berlusconi. La messa è stata officiata dal Cardinal Bagnasco, né retorica né nostalgia nel dire grazie a Dio per l'Italia, ma consapevolezza che la patria che ci ha generato è una preziosa eredità, detto nella sua omelia. Lia il via alle celebrazioni questa mattina dal Capo dello Stato con l'omaggio al Milite Ignoto, mentre un battaglione interforze intonava l'inno di Mameli e nel cielo sfrecciavano le frecce tricolori, e poi la deposizione di una corona di alloro sulla tomba di Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, spari di cannone al Gianicolo, dove Napolitano ha scoperto il monumento equestre restaurato di Anita Garibaldi e inaugurato il Museo della Repubblica Romana della Memoria Garibaldina, mentre il momento più solenne, come dicevi tu, Annorita, questo pomeriggio con la seduta Camere Riunite del Parlamento. Da Roma è tutto, a voi. Grazie Alessandra, c'è un fronte politico, innanzitutto è stato contestato il Premier Berlusconi e poi una giornata nella quale l'atteggiamento della Lega proprio rispetto alla cerimonia più importante, quella del pomeriggio, resta ancora incerto. In diretta da Roma Vincenzo Miglietta, Vincenzo. Sì, una giornata particolare per il Presidente del Consiglio Berlusconi, tra vicende giudiziarie e difficoltà nel rimpasto di governo e la grana della Lega per i 150 anni dell'unità, il Premier si aspettava forse un momento di distensione con il consueto bagno di folla a cui è stato abituato in questi anni. Gli applausi ricevuti questa mattina all'altare della patria non si sono però ripetuti negli altri appuntamenti romani, urla e insulti al Gianicolo, quindi il dimettiti a Porta San Pancrazio davanti al Museo della Repubblica Romana, stessa situazione alle 12 davanti a Santa Maria degli Angeli. Unica battuta fatta dal Premier a Piazza Venezia: vado avanti, resto per difendermi, non lascio il paese in mano ai comunisti. Ma il clima tra le forze politiche resta difficile, puntato sul no della Lega ai festeggiamenti, un fatto gravissimo questo secondo il leader del PD Bersani. Sentiamo. Non è obbligatorio essere in un governo, in una maggioranza di governo, non lo ordina il dottore. Se si giura sulla Costituzione e sulla bandiera, si rispetta il giuramento. Siamo arrivati a un punto veramente inaccettabile, io credo che il capo del governo debba chiedere conto alla Lega di questo comportamento e verificare se questa maggioranza esiste su temi basici, non su amenicoli, su temi basici. Dal Popolo della Libertà la Russa commenta: a volte c'è del folklore da parte della Lega, ma sulle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia non sono accettabili atti di scorrettezza e di ostilità. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. La Lega protesta, ma c'è un Nord che festeggia. È durata fin quasi all'alba la notte tricolore a Torino, dove domani arriva proprio il capo dello Stato. Ci racconta tutto in diretta da Torino Paolo Piacenza. Paolo. Sì, buongiorno. Qui dopo una festa che appunto è durata fino a tarda notte, che ha visto in piazza tra i 100.000 e i 200.000 torinesi, ora Torino si prepara ai due giorni di visita del capo dello Stato. Paradossalmente oggi qui è una vera giornata di festa, con ancora tanta gente, famiglie, soprattutto nelle strade del centro, pochi per i negozi, la maggior parte per vedere la città che festeggia, imbandierata, ma senza impegni particolari, perché oggi c'è stata soltanto, se così vogliamo dire, l'alzabandiera in piazza Castello alla presenza delle autorità, e poi oggi è una giornata di vacanza. Ieri notte tra i 100.000 e i 200.000, come detto, torinesi in piazza Vittorio, nelle vie centrali, la Mole con una triplice con l'Anna Tricolore, teatro e musica in piazza con il vincitore di Sanremo Vecchioni, che è arrivato tardi, verso l'una, a chiudere lo show giusto dopo lo spettacolo dei fuochi artificiali. Nelle in otto piazze risorgimentali del centro c'erano otto province piemontesi ad animare la festa. Il tutto si era aperto con la fanfara della Taurinense e con un inedito coro spontaneo da parte dei torinesi, che hanno cantato tutti insieme l'inno nazionale. E adesso spettano i due giorni con il capo dello Stato, l'inaugurazione del Museo Nazionale del Risorgimento e del Museo Nazionale dell'Auto. Ed è tutto. Grazie Paolo. E cosa succede invece in una città un po' simbolo dei leghisti? Andiamo ad Adro, in provincia di Brescia. Lo ricorderete, famosa per la scuola pubblica tappezzata dal sole delle Alpi. Ad Adro c'è Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, un solo comune, due diversi cortei e due modi di celebrare l'Unità d'Italia. Adro, paese diventato, come ricordavi, un caso politico per l'esibizione del Sole delle Alpi, simbolo leghista anche su una scuola, oggi è un paese a metà. Mentre decine di persone, infatti, questa mattina sfilavano insieme con i partigiani dell'Ampi tra inni e bandiere, molte delle quali esposte anche sulle finestre, altre insieme al sindaco dedicavano la giornata a due eroi risorgimentali del posto, i fratelli Dandolo. Chi si riempie la bocca dell'Unità d'Italia in realtà la divide e polemizza il primo cittadino Oscar Lancini, che nonostante la festività stasera terrà consiglio comunale. Sentiamolo. Stasera facciamo un consiglio comunale come tanti. Quindi come una giornata normale? Come una giornata normale. La contestazione che oggi il movimento della Lega Nord fa è all'Italia di oggi, non quella di allora. Capitolo scuola è chiuso oppure? No. Ride bene chi ride ultimo. Rimossi infatti quelli della scuola, i simboli cari al Carroccio restano su panchine e cestini, e oltre a quelli già deliberati per una rotonda e un gonfalone, il sindaco punta a un coup de théâtre che per ora non vuole svelare. E da Adro è tutto. Grazie Raffaella. Una bandiera tricolore è spuntata intanto a sorpresa questa mattina sul balcone della sede della Lega Nord Varese, la prima aperta da Bossi e che per i leghisti ha un alto valore simbolico. Il sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, ai nostri microfoni ha precisato che la bandiera non è stata sicuramente issata dai leghisti. E a Milano contestazione in Piazza della Scala, dove nel giorno dei festeggiamenti per l'Unità d'Italia il capogruppo della Lega al Comune di Milano, Matteo Salvini, è stato contestato. Ecco cosa ha detto poco fa la nostra Anna Migliorati. C'è stata qualche manciata di ragazzotti che la democrazia non sanno cosa sia, che hanno iniziato a insultare, a urlare, a spintonare, quindi abbiamo sospeso il nostro servizio di sportello per i cittadini, perché c'era il rischio che qualche pirla facesse andare le mani, sostanzialmente. Da mettersi di mezzo la polizia, ma gente che c'entra poco con la festa dell'Unità d'Italia, penso, anche se aveva qualche tricolore in mano. Torneremo a parlare dell'Unità d'Italia più tardi, ora in Giappone, dove si continua a gettare acqua dagli elicotteri sui reattori per diminuire la temperatura del nocciolo ed evitare la fusione. I rumori che sentite sono quelli degli elicotteri dell'esercito giapponese che si avvicinano gettando tonnellate d'acqua sui reattori surriscaldati della centrale nucleare di Fukushima. Acqua per diminuire la temperatura del nocciolo ed evitare la fusione dei reattori 3 e 4, cioè quelli più deteriorati. Nella televisione di Stato giapponese NHK si susseguono gli esperti a spiegare cosa stia accadendo. Intanto la Cina chiede informazioni più dettagliate e gli Stati Uniti lanciano l'allarme perché, secondo loro, la situazione è ben più grave di quella descritta da Tokyo. What we believe at this time is that there has been a hydrogen explosion. Il numero delle vittime è in crescita, intanto, a distanza di 6 giorni dal violento terremoto e dallo tsunami. Oltre 5.000 i morti, 8.600 i dispersi. È il bilancio che la polizia giapponese ha diffuso poco fa. Centinaia di migliaia, si parla di oltre 300.000 le persone sfollate. Vivono in condizioni disperate, senza riscaldamento, senza acqua, col cibo che scarseggia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E da Latina oggi una dichiarazione molto importante sul programma nucleare italiano è arrivata dal nostro ministro Romani. Sentiamolo al microfono di Nicola Filippone dell'agenzia di stampa Il Sole 24 Ore, Radio Cor. Bisogna spostare il dibattito fra nucleristi ed antinucleristi un dibattito sulla sicurezza. Le notizie che arrivano sono preoccupanti. Si parla di pausa di riflessione, è una pausa di riflessione che ci consente di capire cosa stia accadendo. Noi non possiamo oggi occuparci quasi esclusivamente di sicurezza e capire che cosa si debba o si possa fare, perché quello che sta accadendo in Giappone e ancora non sappiamo cosa possa accadere non possa assolutamente riprodursi in Europa. Dalla Libia notizie preoccupanti, raid aerei si stanno susseguendo a pochi chilometri da Bengasi, sono seguiti da spari della contraerea dei rivoluzionari anti-Gheddafi. Il maltempo si placca, la situazione in Veneto, ma piove insistentemente sul Lazio, dove si registrano fiumi ingrossati e diversi danni. La più colpita è la zona meridionale della regione, dove nelle ultime 12 ore si sono accumulati 70-80 mm medi di pioggia, che hanno ingrossato numerosi corsi d'acqua, in particolare nel bacino del Lirigarigliano, con esondazioni nel Frusinate. Alta tensione però anche a Roma, dove stamattina all'idrometro di Ripetta il Tevere ha superato di pochi centimetri il livello dei 10 metri. Tutto prevedibile e tutto sotto controllo per ora, sostiene la Protezione Civile del Lazio, mentre i suoi volontari collaborano con i Vigili del Fuoco nei numerosi interventi richiesti in regione per esondazioni, allagamenti, ma anche frane. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E come promesso in chiusura torniamo sull'Unità d'Italia, la storia della radio e anche quella della costruzione dell'identità nazionale. Per decenni è stato il medium unico, poi ha retto l'affermazione della TV e ora sposa l'era digitale, a quanto sembra con ottimi risultati. A Copenaghen in corso i Radio Days Europe 2011 con 600 radio per confrontarsi e capire che forma avrà la radio del futuro prossimo. E a Copenaghen c'è il nostro Gigi Donelli. Gigi. Sì, buongiorno Rita, assolutamente una radio che cambia evidentemente con il passo e il ritmo delle tecnologie digitali. Giustamente hai detto 600 radio qui, pensate sono oltre 5.000 in Europa, insomma è un network importantissimo. Naturalmente strategie e ricerche per il futuro, per un mezzo che è stato dato per morto tante volte, che lo è tutt'altro, basta, come dire, sentire la nostra Radio 24, ma per un mezzo che sta entrando a grandi passi verso l'era digitale, che quindi accumula contenuti, acquisisce nuove possibilità, ma anche delle complessità diverse. Una sola nota in conclusione, naturalmente resta grande la divisione, il digital divide tra giovani e meno giovani, ora colpisce anche il settore radiofonico e in qualche modo gli impone delle riflessioni sul futuro. La linea allo studio. Grazie a Gigi Donelli ed è tutto per questa edizione curata in regia da Pietro Lacorte. Adesso vi lasciamo allo speciale La storia d'Italia in 24 minuti. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.